versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, siamo in diretta a 16.30 prima 41 secondi qui dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia e vi ricorda il numero di telefono per intervenire: 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. Anche oggi dedichiamo la puntata, questa volta non a un ascoltatore come ieri, però siamo su un tema che resta attinente. Ieri era il racconto di questa incredibile storia del concorso nazionale, il primo nazionale dopo moltissimi anni per l'abilitazione specialistica medica, e l'autocappottamento incredibile dello Stato di fronte a migliaia di medici che hanno concorso a un concorso che lo Stato prima decide di annullare, poi non lo annulla, poi fa manipolare i test, a quel punto ci sono i ricorsi, il TAR dà ragione ai ricorrenti, a quel punto il governo dice non se ne parla neanche, il Consiglio di Stato dà ragione ai ricorrenti, il governo dice no, torniamo al TAR, ed è ancora aperta lì. Questo per, abbiamolo sullo sfondo per ricordarci che cos'è, ecco, lo Stato quando si tratta di meccanismi di premio e di valutazione del merito. Ma oggi facciamo un'altra puntata dedicata all'esame parlamentare che va avanti della riforma della scuola, perché ho capito dalle lettere, dalle osservazioni che arrivano, le tantissime osservazioni che sono arrivate dopo la puntata dei conti da Beriva di sabato sui test dell'Invalsi, che hanno diviso il pubblico degli ascoltatori tra chi era d'accordo con noi, con i conduttori della 24, che dicevano ma insomma come può una scuola chiedere agli studenti di boicottare i test Invalsi, però tanti anche dicevano ma basta con questi test con le crocette e così via. E quindi anche oggi parliamo di questo esame della riforma della scuola che nel frattempo va lentamente ma va avanti nelle aule parlamentari. Oggi abbiamo un protagonista della riforma della scuola negli ultimi decenni nel nostro paese, perché è con noi a parlarne Luigi Berlinguer, che è un ex parlamentare, soprattutto è stato ministro dell'istruzione, attualmente è presidente del Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica e lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori. Grazie. Allora, io prima di porre la prima domanda, naturalmente l'argomento sarà, siccome ci è già passato, cosa pensa di questa riforma e dei punti più caldi di questa riforma, però voglio ricordare ai nostri ascoltatori due cose. Che stamattina nell'esame parlamentare, su richiesta della minoranza del PD, è stato stralciato, cioè levato dalla riforma e rinviato, si fa per dire, ma almeno formalmente questa è la clausola, rinviato alla legge di stabilità, una delle ragioni per cui il fronte del no alla riforma era più arrabbiato, e cioè il meccanismo del 5 per 1000 alla scuola. Il meccanismo del 5 per 1000 alla scuola dedicato a tutta l'istruzione pubblica, quindi sia alle scuole di Stato pubbliche sia alle paritarie, che però fanno parte dell'istruzione pubblica anch'esse, e tra l'altro la legge che fece fare il passo avanti sulla parificazione dei due segmenti della formazione pubblica avvenne proprio col ministro Berlinguer. Quindi richiamo questo precedente perché il 5 per 1000 è saltato dalla riforma. Domanda: ma siete davvero convinti che questa sia una richiesta saggia, cioè levare l'incentivo ai privati a finanziare la scuola con il 5 per 1000 rispetto alla dichiarazione dei redditi, motivando che in questo caso può andare anche alla paritaria pubblica e non solo alla pubblica, non ha comunque l'effetto di un autogol, visto che comunque a quel punto il 5 per 1000 non arriva né agli uni né agli altri, pur essendo entrambi di formazione pubblica? Ecco, questo è l'esempio delle ultime ore di dibattito sulla riforma della scuola. E poi, seconda osservazione, poiché uno degli altri argomenti centrali del dissenso su questa riforma è il ruolo e le nuove funzioni attribuite al dirigente scolastico, il vecchio preside per così dire, voglio richiamare a tutti voi sul sito della voce.info è uscito un articolo di un economista di cui io sono fan, un grande stimatore, Francesco Daveri, andatelo a guardare se avete tempo o voglia o vi appassiona questo dibattito, e Francesco Daveri ha il merito secondo me di rispondere con chiarezza a chi obietta puntata sui nuovi poteri del dirigente scolastico, e il succo di questa osservazione del professor Daveri è questo: siccome i sindacati contrari alle nuove funzioni del dirigente scolastico, gli studenti che sono sfilati insieme ai sindacati contrari, dicono che dare più funzioni al dirigente scolastico è improprio perché significa equiparare la scuola a un'azienda, bene, Francesco Daveri prende questa critica come un toro per le corna, per così dire, e dice: guardate, io voglio, la mia esperienza universitaria, quindi da ex studente, da docente oggi, rispondervi con chiarezza. Sì, cari obiettori e chi non è d'accordo, è un'azienda. Naturalmente bisogna mettersi d'accordo, non è un'azienda a fine di lucro, non è la Fiat, non è l'IBM, non è la General Motors, ma è un'azienda come la Caritas, quantomeno come la Caritas, cioè un'azienda non a fine di lucro che però ha bisogno di gente più responsabilizzata, il cui compito è di far andare meglio le cose, se possibile ottenere più risorse dai privati, valutare il piano dell'offerta formativa, avere più voce in capitolo anche nell'integrazione dei docenti rispetto a quelli di ruolo, prendendoli, essendosi consultati col collegio dei docenti e con il consiglio d'istituto, dagli albi, dalle regolatorie provinciali, che a quanto pare dovrebbero integrare coloro che non entrano in ruolo da subito, i primi 106.000 con la riforma, eccetera eccetera. Però la risposta del professor Daveri è una risposta netta, dice: se l'obiezione è questa, sì, anche la scuola è come un'azienda non a fine di lucro, però è un'organizzazione complessiva di fattori umani, di fattori fisici e di quelli che si chiamano intangibles in termini economici, cioè di fattori immateriali, come sempre quando si parla di capitale umano. Però la vostra obiezione non sta in piedi, perché c'è bisogno di responsabilità e di potere in chi non è un gerarca sovraordinato, ma semplicemente avrà delle responsabilità diverse rispetto a chi va in cattedra a insegnare. Allora, mi perdoni questa lunga introduzione, professor Berlinguer, io voglio subito chiederle, dal suo punto di vista, cominciamo proprio dai poteri del dirigente scolastico, questa riforma, per come lei l'ha vista e rispetto alle critiche che vengono da una parte della sinistra e dal sindacato, che cosa c'è di male e che cosa si potrebbe fare di diverso rispetto ad attribuire i poteri che la riforma attribuisce al dirigente scolastico? Mi permette di dire una cosa totalmente ignota, che io sono nettamente di sinistra. Certo. E che non tollero che taluni chiedano il monopolio di questa etichetta, perché ci sono posizioni che si collocano a sinistra e che spesso tendono a conservare e non a cambiare. Certo. Ma la natura della sinistra e l'aspirazione anche ideale è cambiare, non conservare. Questo è il primo assunto. Secondo assunto: la scuola è un organismo complesso, molto complesso, come è oggi, non ieri. Ieri era la somma di varie discipline, non nelle elementari dove funziona così, ma lo è meno. Nelle medie e nelle superiori, dove ogni docente insegna la sua disciplina. Nel passato tutto era circoscritto all'apprendimento e all'insegnamento disciplinare, da primo a prima ora italiana, seconda ora economia, terza ora lingua straniera, quarta ora matematica, incomunicanti uno con l'altro, con una frammentazione del sapere e con una estraneità dal punto di vista della partecipazione attiva, creativa del corpo docente nella mattinata, nel corpo docente. I ragazzi studiavano a casa. Questo tipo di scuola non regge più nel mondo e la dobbiamo cambiare. Ho timore che una parte della difesa dell'iperdisciplinarismo, cioè delle pure materie e basta, nasconda l'obiezione. Seconda cosa, terza cosa, però si badi che io non voglio annullare le nozioni, perché se uno studente non ha nozioni è ignorante, non mi interessa più. Ma limitare solo alle nozioni della propria disciplina, in un mondo in cui il 70% di ciò che noi, che i ragazzi sentono e imparano, viene da fuori del rapporto cattedra-banco e viene anche dalla ricchezza dell'offerta culturale che viene dal contesto, dallo stesso territorio, dai centri scientifici, dai musei, dai luoghi di concerto, dalla stessa natura e poi anche dai luoghi di lavoro dove c'è un accumulo di sapere straordinario. Se non registriamo questo, non comprendiamo che la scuola oggi ha bisogno sì di fondare l'apprendimento sui cosiddetti epistemi, i contenuti delle varie materie, ma insieme di avere momenti non solo individuali, ma anche di collaborazione fra studenti e persino fra docenti. E questo aumenta la complessità. E allora l'organizzazione non può essere quella per cui il preside solo passa carte o quello che mette una nota di biasimo allo studente discolo e finisce tutto lì. E non può essere che i docenti continuino ognuno a camminare sulla propria strada e per conto proprio, perché dei momenti in cui l'interconnection, come si dice oggi nel mondo, che è la vera filosofia di oggi, e cioè la ricomposizione unitaria del sapere, il mettere insieme lo studio della storia dell'italiano, persino della fisica, persino della matematica, e trovare le forme che nella mente del ragazzo o del ragazzino tendono con sforzo a ricomporsi, e che invece deve essere questa struttura più collegiale, non totalmente collegiale, a portarlo. Questo, se non facciamo questo, noi non camminiamo. La scuola è una cosa seria in Italia, ma arcaica. Allora, bisogna cambiare, non si può resistere a conservare solo il passato. Le vorrei dire un'altra cosa. Ci sono in Italia centinaia di scuole e migliaia di docenti che non strillano e che non si lamentano, che l'hanno già cambiata la scuola. Cioè questo progetto ha già messo le gambe. Io dirigo una rivista online, si chiama Education 2.0, che registra tutti questi cambiamenti. E c'è un orizzonte che dimostra che alcune delle idee della riforma stanno già camminando. E guai a fermarci o a bloccare questo disegno, perché già è successo in parte nel passato e stiamo ricominciando da capo continuamente. Allora che cosa vuol dire il preside? Certo, si è fatto qualche errore nella prima stesura, e appariva che il preside potesse addirittura nominare i docenti. Sì. Prima di tutto questo non è vero. Sì, appunto. In una scuola ci sono 200-300 docenti di italiano, di fisica, di matematica, di tutto quello che lei sa, vero? Questi, il preside non ci mette becco, perché vincono o un'abilitazione o un concorso. Il preside mica è un tuttologo che può, esatto, reclutare. C'è un filtro scientifico o culturale per cui uno vince la sua prova e prende la cattedra, vero? Certo. Quelli stanno lì. Poi si prevede che per creare questa forma di, diciamo, questa parte più collegiale, il preside non deve stare solo, e spesso anche per supplire, tipo supplenza, altre, certo, cose, ma non soltanto questo, per avere delle forme per coordinare, ecco la filosofia, per coordinare i vari momenti dell'insegnamento ci vuole un collegio che si chiama organico funzionale, esatto, che io istituì e che la Moratti cancellò. Però voglio dire, come a tante altre cose, allora cosa succede? Che questo organico, e sono 5, 6, 7 persone su 200. Esattamente. Come si fa a dire che denomina i docenti? Esattamente. Cioè, no, mi fa piacere, perché dicendolo lei con questa chiarezza, fughiamo ogni sospetto in chi ci ascolta. Perché quando l'abbiamo ripetuto noi, ci sono venuti un mucchio di osservazioni dicendo: ah, siete al servizio di un disegno. No, è così. È esattamente come gli sta dicendo Luigi Berlinguer. Se mi dicono che sono al servizio di un disegno, io le chiedo quale disegno. Appunto, sì. Se mi dicono che rubo, allora mi dimostrano che rubo, ma se si accusa non si può dire tu vuoi realizzare non so che cosa. Bisogna citare, l'opinione pubblica si è mobilitata su questo falso. Seconda cosa, c'è qualche ombra per quanto riguarda i docenti dell'organico numeroso, sì, alla conferma o meno dopo 3 anni eccetera, e queste incertezze forse l'esame parlamentare qualche elemento di chiarezza può introdurre. Teniamo conto che Renzi è stato contrarissimo a intervenire sui testi dei suoi disegni di legge in Parlamento. Sulla scuola ha consentito che la Camera riscrivesse in buona misura quel, ecco, testo. E quindi questo vuol dire che non so lui, ma certamente la materia si presenta più complessa e richiede un serio apporto parlamentare. E che sta succedendo? Perché allora, dov'è il punto? Che non si può lasciare al preside un dominio assoluto, perché fa danno. Che che però non c'è mai però, stato nel testo. Non c'è mai stato, però può aver anche generato un dubbio. Allora vediamo incontro a questo. Per esempio, l'aver creato un nucleo di valutazione delle persone. Sì. Il fatto che lo stesso preside sarà sottoposto a valutazione. Esatto. E poi il fatto che si possono anche far intervenire il collegio dei docenti per esprimere un parere favorisce la collegialità, purché dottore, si abbia la collegialità, non si continui ad avere una somma di discipline e di individui che frammenta il sapere necessario, ma che vive una vita come quella del passato. Allora, ecco. abbiamo chiarito questo punto, con tutta la complessità del caso, però l'abbiamo chiarito, cioè qui l'ombra dello sceriffo non c'è. Il testo è stato anche modificato, adesso il problema è di andare avanti in questa visione di un'offerta formativa istituto per istituto che non sia la somma frammentaria di chi sta in cattedra. Allora, passiamo poi, dopo i 60 secondi di informazione sulle strade, a un altro punto esplosivo, cioè quello sui criteri di valutazione del merito, perché ripeto, il boicottaggio degli invalsi è passata un po' come l'idea, basta con questa idea, basta con questo tentativo reiterato di sottoporci al merito. Oggi è stato confermato il fondo di 200 milioni di euro che sarà utilizzato dal prossimo anno scolastico per premi aggiuntivi che dipendono da valutazione del merito professionale dei docenti. Restano gli scatti di anzianità, a differenza di quello che era all'inizio della riforma, però a questo punto di come si valuta il merito degli insegnanti è un punto di vista centrale, quindi tra 60 secondi torniamo con Luigi Berlinguer a parlare di questo. Strade. La versione di Oscar. Eccoci tornati qui in diretta, 16:47 primi 48 secondi, e con noi Luigi Berlinguer, ex ministro dell'istruzione, ex parlamentare di sinistra, ci tiene a dirlo, lo ha detto come prima cosa, per riflettere con noi sul testo che è in evoluzione della riforma della scuola. Abbiamo visto la sua opinione sul dirigente scolastico e andiamo a un altro punto dolente su cui sono accese fortissime contestazioni, quello della valutazione degli studenti. Io leggo un passaggio un'intervista di Luigi Berlinguer stamattina alla Stampa, al quotidiano di Torino, io da torinese ovviamente inizio ogni mattina di lì a leggere i giornali, e Luigi Berlinguer dice una cosa chiara, ricorda che quando fu ministro fece tanti provvedimenti cambiando anche la maturità e non ci fu un solo sciopero. La prima reazione fortissima, sto leggendo testualmente l'intervista di Luigi Berlinguer, fu sulla valutazione del risultato dei docenti. Come si regolò? Chiede il collega della Stampa Giuseppe Salvaggiullo, e la risposta di Luigi Berlinguer è: ritirai il provvedimento. Il giornalista chiede: ma fu una sua scelta? La risposta di Luigi Berlinguer: il mio partito ebbe paura. D'Alema e Veltroni in testa. Qui perdiamo voti, mi dissero. Quando si dimise D'Alema, sostituirono anche me. Ecco, questo è il modo in cui Luigi Berlinguer ricorda come in passato, essendo lui ministro, mise le mani, tentò di metterci le mani sul criterio di valutazione dei professori, ma la reazione fu quella che ricorda, cioè D'Alema e Veltroni ebbero paura e si ritirò. Questa, chiedo a Luigi Berlinguer, con noi collegato, è la volta buona invece secondo lei? Penso di sì. Mi lasci dire che è passata molta acqua sotto i ponti da allora. Allora era una cosa shock. Ricordo che si facevano occupazioni di scuole. No, ripetiamolo meglio, una cosa shock, non sciocca. No, scioccante. Ecco appunto. Scioccante. E io andavo anche in queste scuole occupate. E un giorno in una scuola un professore, mentre era affollata e un po' rovente, molto amato perché bravissimo, di latino e greco, si alzò quasi perentorio con una matita in mano, quasi alzando il dito, e mi disse: ministro, in queste aule i voti li do io. E io gli rispose: mite, perché un po' mite lo so, testardino, ma mite. Io ho insegnato per 20 anni e davo i voti ai miei studenti, lei li dia sempre, perché lei deve giudicare gli studenti. Ma chi giudica lei? Ecco. Perché tutti, sono stato nel Consiglio Superiore della Magistratura, ma noi giudicavamo i docenti, i magistrati, niente proprio di meno, i medici, altra funzione straordinaria come insegnare, vengono giudicati per il loro risultato. Chiunque svolge una funzione importante deve sapere che la società ha il diritto di farsi un'idea sui risultati, non soltanto del singolo docente, ma di tutta l'attività. Però lei mi ha fatto un'altra domanda più per penetrante. I 200 milioni per il merito, eccetera. Io sono convinto che rispetto a ieri, oggi ci sono migliaia, non centinaia, soprattutto diciamo centinaia di docenti che vogliono essere valutati. E mi dicono alcuni, ma io, scusi il termine, mi faccio un mazzo come un demonio, lavoro tanto. E qui il mio vicino mi sembra un po' infingardo, non posso essere giudicato allo stesso modo. Per favore, datemi il modo di dimostrare che io ce la metto tutta. E le faccio una domanda provocatoria, perché tanti a sinistra dicono questo significa rompere l'eguaglianza tra i docenti. No, l'eguaglianza. Don Milani insegnò e tanti altri nella filosofia tradizionale che considerare uguale il diseguale è la più grave delle ingiustizie, delle iniquità, perché introduce questo giudizio, introduce la disuguaglianza. Sono d'accordo. Perché come diceva von Humboldt, la vera libertà è la libertà di non dimenticare che siamo diseguali. Però questo esatto, è... naturalmente, questo non vuole... dove sta l'ineguaglianza? Sta nel fatto che si riducano le opportunità che devono essere aperte a tutti e che si riduce persino la crescita di ciascuno valutando meglio il figlio di papà o il raccomandato dell'altro. Questo sì che è disuguaglianza che va combattuta, ma la registrazione delle differenze, se accompagnata alle misure per limitare al massimo queste differenze, aiutare certo. chi sta più indietro, ecco le due misure, questa è la misura, mi lasci dire, secondo me per tutti, ma soprattutto per la sinistra. Allora, ma facciamo questa, io ci avrei un'idea, se c'è un attimo per sì, dirla. Dica, la spiega. Che è apparsa anche qua e là, ho visto, per quanto riguarda questi 200 milioni, perché è giusto che il docente venga considerato un intellettuale e non soltanto un professionista. Se poi insegna la musica come io mi sto battendo come un leone per realizzare, forse stiamo per vincere la battaglia, deve conservare anche la sua anima di artista quando va a scuola a insegnare la musica, non solo come insegna, parlo delle elementari, non dei musicisti professionisti. Allora, l'intellettuale docente è giusto che abbia un'opportunità per poter arricchire il suo bagaglio non solo professionale, ma da intellettuale, per poter andare a concerti, per seguire teatri, comprarsi un quadro, arricchire la biblioteca. Quel bonus che veniva che verrebbe dato, io tentai di farlo, ma non andò così bene come ora. Pare che ora i 200 milioni ci siano. Io farei così. I sindacati, quelli che non vogliono distruggere la riforma, perché c'è una parte, cioè CGL, CGL, confederali, non vogliono che si ritiri, non chiedono che si ritiri il provvedimento. Sono i sindacati di base che lo chiedono. Sono i sindacati che si chiamano sindacati di base, ma sono una caricatura dei sindacati, e poi qualche altra forza, naturalmente, anche altre forme sindacali. Però qual è la sostanza? Loro questi 200 milioni, vanno, per fortuna che ci sono, vanno distribuiti per affermare un principio non di distribuzione a pioggia, ma di premialità. Tu sei andato a lavorare a Scampia, in zone difficili dove spesso non ci si vuole andare, non vuoi continuare a permanere in un certo posto dove invece la tua opera è utile, passi un orario maggiore al lavoro, non senza modificare naturalmente il rapporto contrattuale, eccetera. Se tu hai i risultati, beh, io te lo riconosco, però i sindacati dicono lasciate alla contrattazione sindacale l'erogazione della somma perché si tratta di un diritto contrattuale. Forse non è del tutto fuori il discorso, ma se poi nella contrattazione voi lo distribuite a pioggia, allora si può fare qualcosa. Si approvi in Parlamento una norma che non si impiccia di modificare la condizione contrattuale, sì, ma che dà la direttiva che quei fondi non si possono distribuire a pioggia. Sono completamente d'accordo con questa osservazione di Luigi Berlinguer, completamente, e mi auguro che questo sia chiaro al Parlamento nel dirlo, perché di queste piccole grandi svolte secondo me c'è bisogno. Io tra l'altro non ne faccio neanche questione di sinistra o destra, per una scuola più efficiente, per formare il futuro dei nostri giovani in un mondo che corre, ecco. Però questa è la mia opinione personale. Intanto ringrazio Luigi Berlinguer, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.